Qual è la differenza tra Italia mano armata e Notte improvvisa? Nessuna, solo che la prima è la colonna sonora composta da Franco Michalizzi dell'omonimo film degli anni 70, mentre Notte improvvisa è un brano contenuto nell'album d'esordio dei Calibro 35 del 2008. La loro storia inizia a Milano nei primi anni 2000, quando un gruppo di musicisti, coordinati da Tommaso Colliva, che diventa immediatamente il produttore e il sound designer del gruppo, decidono di reinterpretare con un gusto postmoderno alcune fra le più note colonne sonore dei film polizieschi italiani. Viene scelto un nome che faccia riferimento al mondo cinematografico. Calibro è un tributo al film del 1972 di Fernando Di Leo, Milano Calibro 9, mentre 35 è un riferimento alla pellicola cinematografica. Il motto della band diventa fin da subito questo: imparare dal passato per portare la musica nel futuro. Un motto che riassume perfettamente la loro estetica sonora. Come in un immaginario romanzo criminale, i suoni di questo jazz acido e sotterraneo corrono veloci, rielaborando le vecchie colonne sonore più o meno dimenticate, in un ibrido di funk, classico e progressive rock. Ogni aspetto è curato nel minimo dettaglio. Tutto riporta a quell'immaginario buio e violento che ha caratterizzato gli anni di piombo. Il loro primo album, Calibro 35, viene pubblicato nel 2008 e ottiene subito un immediato successo, perché per la prima volta in Italia si inizia a parlare di un nuovo genere, quello della colonna sonora, che si slega dall'immaginario esclusivamente cinematografico, capitanato da Ennio Morricone, ma entra anche nelle sale da concerto, nei club, nei dischi e nelle cuffie personali degli ascoltatori. Un aiuto fortunato è stato dato dalla cover dell'Appuntamento, il grande classico di Ornella Vanoni, reinterpretato dalla voce di Roberto Dell'Era, bassista degli After Hours, grande amico dei Calibro 35. In questa fase i Calibro 35 beneficiano dell'ondata innestata dalla riscoperta a livello internazionale delle grandi colonne sonore italiane, sicuramente grazie anche all'aiuto dei film di Tarantino. In quel momento non c'era nessuno che stesse suonando quelle cose e così i Calibro si trovano a coprire un buco artistico, incarnando il tipo di musica che in molti, in particolare in America, stavano cercando. Due anni dopo, nel febbraio del 2010, arriva il secondo disco, Ritornano quelli di, che tende a replicare la formula dell'esordio. E anche qui il successo è grandissimo. Ma dopo varie cover e alcuni brani inediti, la chiusura del cerchio arriva nel 2013, quando la band realizza per la prima volta la colonna sonora originale di Said, una pellicola originale di Joseph Lefebvre. Da quel momento, oltre a numerosi album indipendenti, riescono a firmare altre colonne sonore, sia per film italiani che per produzioni internazionali. Ma il salto definitivo, che arriva veramente al grande pubblico, viene fatto nel 2022, un anno interamente dedicato all'operazione tributo al maestro Ennio Morricone, a cui viene dedicato il disco Scacco al Maestro, suddiviso in due volumi, 21 tracce che vedono la partecipazione di musicisti italiani famosissimi, tra cui Elisa e Roy Paci. Il repertorio di Morricone è uno dei più alti e nobili della tradizione italiana, che viene filtrato dai Calibro attraverso una sensibilità creativa, sfaccettata, cinetica, che riesce a rendere la disarmante bellezza delle colonne sonore quasi più attuali, più disponibile al grande pubblico. Dopo il tour nei teatri, iniziano un nuovo percorso. Il Club Tour, dove eravamo rimasti, porta dal vivo l'intero repertorio di oltre 15 anni, fatto non solo di cover, ma anche di brani inediti, tra cui Extraordinaire, uscito qualche settimana fa. Il live al Locomotive sarà domani, giovedì 13 aprile, e noi non vediamo l'ora di poter assistere dal vivo a questo appuntamento imperdibile.